Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Il personaggio dell'ispettore Ferraro, e per tutti gli appassionati dei romanzi di Gianni Biondillo, insomma, è una gioia, perché poi ai personaggi seriali ci si affeziona. Il romanzo si intitola L'incanto delle sirene, un'indagine appunto dell'ispettore Ferraro, pubblicato come sempre da Guanda. Stavolta Biondillo però non ha fatto muovere il suo personaggio seriale negli ambienti che conosce di più. In genere lui viene da Quartogiaro, vive in via Padova, insomma, ma nelle cosiddette periferie. Stavolta lo fa muovere in un ambiente a lui totalmente estraneo, che è il mondo della moda. Tutto accade un giorno mentre guarda la televisione con sua figlia è appassionata, insomma, comunque di moda, di tendenze. Con i suoi amici si mandano messaggini, sms, eccetera, e in diretta, durante una trasmissione televisiva, una modella viene uccisa, forse per errore, le sparano forse per errore. E qui l'ispettore Ferraro deve appunto indagare. Biondillo, allora, tu non fai mistero di non essere l'uomo più fashion del mondo, mettiamola così, insomma. Allora, come ti è venuto in mente stavolta di mettere un po' il tuo alter ego, insomma, il tuo ispettore Ferraro nel mondo della moda milanese? Che cos'è che ti ha attratto? Ma potrà sembrare molto strano, però è stato un viaggio fatto a Kampala, in Africa. Ero in Uganda, sono entrato in un centro commerciale, ti lascio immaginare come può essere un centro commerciale in Uganda, e c'era un negozio di vestiti che aveva un'insegna con un nome italiano, ovviamente completamente inventato, non c'era nessun italiano dentro, quello stilista non è mai esistito, però era interessante come nell'immaginario globale basta, no, una parola italiana per essere sinonimo di moda, di essere fashion, di essere appunto... Mamma mia, Biondillo che mi dice fashion, mi sembra proprio... E appunto, e allora in quel momento ho detto, vabbè, insomma, io hai topografato tutta la città in lungo e in largo, hai sempre continuamente evitato il più possibile un pezzo di città che nel bene o nel male c'è e ha il suo significato, e in qualche modo esporta questa idea, insomma, d'Italia nel mondo, e tu ci devi entrare dentro. Ovviamente con un personaggio a disposizione come Michele Ferraro, che mi permetteva di essere contemporaneamente dentro la città ai margini, ma per il suo mestiere obbligato a entrare in un mondo che non conosceva affatto, la cosa si è dimostrata anche per me molto esilarante quando lo scrivevo. Perché... Ecco, ma lo scrittore invece, Biondillo, come si è calato nel mondo della moda? Hai fatto delle ricerche? Sì. Come ti sei documentato? Ho lavorato. Io ogni volta che scrivo un libro mi documento, c'è tutta una fase istruttoria molto importante che poi cerco di far scomparire nel libro, ma c'è. Qui addirittura era il delirio, era appunto che io mi vesto come un daltonico ubriaco, quindi cioè non ho nessun tipo di aderenze e conoscenze di questo mondo, e quindi l'ho frequentato. Cioè, sono andato alle sfilate, sono andato negli atelier, ho letto, ho parlato con gente che lavora nel campo della moda, di giornalisti e non solo. È un mondo di matti, posso dirlo. È un mondo di matti scatenati, però la cosa interessante era che avevo capito che, così come mi dava fastidio quando parlavano magari di certi luoghi, metti appunto Quartogiaro, via Padova, sì, per frasi fatte, uh-huh, luoghi comuni, io mi sono reso conto che specularmente mi portavo dietro i miei luoghi comuni in confronto a questo universo. E cos'è che invece ti ha sconcertato? Cioè, cosa non ti aspettavi da quel mondo? Ma sai, sono tante le cose che non mi aspettavo e mi hanno stupito, ma anche la cosa più stupida, la più banale, cioè io nel mio immaginario, non so, una sfilata di moda era una specie di orgia dionisiaca che durava ore e ore, no? E invece quando vai a vedere la prima e poi anche tutte le altre in seguito, scopri che tutto succede in 10 minuti, ma 10 minuti, sì. E tu dici, ma com'è possibile? Allora lì inizia a farci dei ragionamenti, perché no, la prima volta ho detto, hanno sbagliato, sono arrivato tardi, cercavo di darmi delle giustificazioni, no? Poi strada facendo, vedendone altre, riesci a comprendere che dietro il lavoro di mesi, di centinaia di persone con voglia in questa specie di collo di bottiglia, di questo imbuto dove in 10 minuti devi esprimere tutto, non puoi sbagliare nulla, allora ti rendi conto che forse lì la modella è la cosa meno interessante. Cioè chi sta fuori da quel mondo pensa che la modella sia il centro dell'universo, in realtà è la punta dell'iceberg, c'è tutto un altro mondo che gira intorno, c'è tutta un'altra cosa, e chi guarda, chi lavora, fa come dell'expertise in 10 minuti, devi riuscire a capire tutto, devi riuscire a capire il mood, il sentimento, devi capire anche il più intimo segreto del vestito o dell'accessorio che viene esposto. E questa è una cosa molto interessante, perché significa allenare l'occhio, significa comprendere anche che c'è tutto un mondo fatto di appunto, quando sono entrato poi negli atelier, c'è tutto un mondo di artigiani, di intelligenza, sì, delle mani. Delle mani, mi piace, è vero, dire questo, no? È vero. Che è veramente unica, che è un deposito di cultura straordinaria. Poi molti altri pregiudizi si sono smontati, ma altri si sono confermati clamorosamente. Adesso mentre ti ascoltavo mi è venuta in mente la scena di quel film Il diavolo veste Prada, sì, no? Dove lei, insomma, la direttrice della rivista di moda, dice alla stegista: se tu hai scelto questo colore, che non è azzurro, non è cerule, adesso non ricordo bene la battuta, è perché dietro quel maglioncino infeltrito ci sono persone che prima di te hanno studiato, lavorato, eccetera, e quindi tu sei il, anche tu che non segui la moda sei il frutto della moda. Assolutamente sì, ma questo succede in tutto quello che ha a che fare con l'umano. Noi ci perdiamo di vista che tutto il mondo che ci circonda è artefatto, adesso dico una parolaccia, è antropizzato, cioè è fatto dall'uomo, e quindi diamo per scontato, diamo per banale cose che banali non lo sono mai. Chi a un certo punto lavora sull'abito pensa che abitare e abito hanno la stessa radice. E io, giusto, da architetto questo lo so, insomma. È vero. La forma è il modo in cui tacendo ci si esprime. Sì, perché tu allora hai detto di essere, come ha detto, ti vesti come un ubriaco daltonico, sì, qualcosa del genere, però è vero che sei un architetto, quindi un'attenzione nei confronti Ma del gusto, sì, certo, della bellezza c'è comunque dentro di te. Non so quanto ci sia dentro Ferraro, effettivamente, no, Ferraro perché è più, lui è un più po' ostico. Più è più ruspante. Come, sì, hai ragione, più come ostico, è più greve di me, devo dire. Ecco, però ecco, non rinunci anche in questo romanzo, che comunque parla del mondo della moda, del mondo fatato e anche malato della moda, a parlare dei temi a te cari, che sono quelli delle periferie, che sono quelli degli immigrati, degli ultimi, perché tu hai fatto, prima hai citato l'Africa, ma insomma hai fatto anche reportage dai paesi cosiddetti dimenticati, perché in questo romanzo si intreccia la storia di una bambina, Aisha, che viene appunto dal Nord Africa. Adesso non raccontiamo tutto, però insomma arriva con uno dei barconi, perde il fratello, a un certo punto rimane da sola e su un treno incontra un signore con il quale si sviluppa quasi una solidarietà fra ultimi e fra persone emarginate, ognuno per la sua ragione. Esatto, sì, la storia di Aisha, che in fondo è stata sono le prime, ho iniziato a scrivere questo romanzo parlando di Aisha, scrivendo di Aisha. Aisha. Però poi, sai, quando ho iniziato a scrivere questa storia di Aisha, aprivo i giornali o accendevo la televisione e vedevo cose che erano sempre più pesanti, difficili da poter raccontare, quasi morbose. Cioè, avevo il terrore di entrare in un vortice di morbosità che mi dava fastidio. Allora ho capito che forse si poteva raccontare quella storia utilizzando una sorta di modalità che è quella della fiaba. Se ci pensi, la storia che io racconto dentro L'incanto delle sirene, la storia di Aisha, è come una sorta di, sì, è come, di fiaba, di rito, di iniziazione. È proprio la bambina, è Cappuccetto Rosso che attraversa il bosco scuro. Succede questo dentro il libro. C'è questa bambina di 9 anni, Occhi Blu, chiamato da tutti perché ha questi occhi bellissimi, appunto attraversa il Mediterraneo in un barcone, e arriva in Sicilia, deve raggiungere un fratello lontano che sta a Milano, e tutto può accadere ad Aisha. Una bambina perduta in una vulnerabile, femmina, piccola, indifesa in un paese straniero, tutto può accadere, ma come nelle fiabe succede sempre qualcosa di straordinario, e in questo caso incontra il baffo, incontra Oreste, che è un personaggio che io avevo già presentato molti libri fa, che ha bussato alla porta e mi ha detto: beh, allora che fine ho fatto? Perché poi i personaggi arrivano. Ecco, questa cosa degli scrittori che hanno alcuni personaggi seriali, voi scrittori appunto da personaggio seriale l'avete spesso? Cioè ogni tanto i personaggi ritornano con, sì, cose, ma con, cioè, una, sì, certa prepotenza. Voglio esserci anch'io in questo libro. Esatto, è proprio così. E Oreste mi ha detto: allora mi avevi lasciato a Napoli che... ti sei dimenticato di me. E invece no, Oreste, non mi sono dimenticato di te, raccontami la tua storia. E la storia che racconto è proprio questa: questo barbone che vuole tornare a Milano, vuole tornare a Tricudai, che è un posto mitologico per lui, che significa tre teste d'aglio, che i milanesi non sanno neanche più esista. E vuole tornare perché lì dove è nato, vuole chiudere il cerchio sostanzialmente, vuole tornare prima di morire a rivedere il posto dove è nato. Anche questo è favolistico, se ci pensi. A proposito di personaggi seriali, in questo romanzo ovviamente ritorna Mimmo o Animalo, mi piace proprio pronunciarlo così, che è un po' una sorta di informatore dell'ispettore Ferraro, e qui tu indaghi insomma la questione dell'occupazione abusiva delle case, eccetera. Mimmo Animalo è uno bello tosto, diremmo, sì, no? Le sue soluzioni sono molto spicce. Molto spicce, esatto. Il libro si apre proprio con lui. Certo. Si apre. Anzi, poi se anche qui mi sono reso conto che forse in fondo... Che picchia una persona. Sì. Forse in fondo è il vero protagonista del libro è lui, nel senso, per quanto non sia il più presente, perché è pieno di personaggi questo romanzo, poi tutti in qualche modo coinvolgono, cioè passano da lui, persino personaggi lontanissimi dal suo universo. Mimmo Animalo è una sorta, ha una sua etica un po' western dentro di sé, no? Ha una sua morale spiccia, come hai detto tu, ma ce l'ha. Pesta sostanzialmente chi sta governando il racket delle occupazioni abusive, che è un problema vero a Milano, uh-huh. Perché il dato che viene riferito nel romanzo non è inventato, cioè quando io dico c'è un alterco, un litigio fra Michele Ferraro e Mimmo Animalo, loro sono amici fin da ragazzini, sì. Quindi c'è un rapporto personale che va al di là del fatto di essere fuori legge o dentro la legge, uh-huh. Michele gli dice stai avallando in qualche modo un'occupazione abusiva, lui dice tu sai quante case sfitte di proprietà pubblica esistono a Milano in questo momento? 10.000. Ed è un dato vero. Ed è un dato vero, è una cifra impressionante, cioè ci sono 10.000 famiglie che potrebbero avere in qualche modo una casa. Grazie allora a Gianni Biondillo, ora in libreria con L'incanto delle sirene, una nuova indagine, la settima, giusto? Se non... Hai perso il conto dell'ispettore Ferraro, quindi un romanzo fra il giallo e il poliziesco, ma anche c'è molta tenerezza, molto sguardo sociale ai personaggi. Si ride e si piange, l'hai detto alla perfezione, guarda scrittore. Pubblicato da Guanda. Ora facciamo una breve pausa, poi parleremo ancora di un altro libro. Il cacciatore di libri. E ora un libro che vi consiglio veramente con il cuore. Si intitola I miei piccoli dispiaceri, scritto dalla canadese Miriam Toews, pubblicato in Italia dalla Marcos y Marcos con la traduzione di Maurizia Balmelli. Si tratta di una storia vera e questo lo rende ancora più potente. Ci sono due sorelle, Ioli ed Elfrida, che vivono in una comunità di Mennoniti, quindi una comunità insomma per loro soffocante. Elfrida, detta Elf, diventa una grande pianista, famosa in tutto il mondo, fa tournée, gira il mondo, eppure c'è qualcosa che non va nella sua testa. Soffre di depressione e, come già aveva fatto suo padre, tenta numerose volte il suicidio. Questo romanzo è la storia dell'amore di Ioli, la voce narrante, nei confronti della sorella, il tentativo di capirla, di tenerla ancorata alla vita, ma naturalmente ci sono anche i momenti di rabbia in cui veramente non riesce a capire perché voglia suicidarsi. Un romanzo doloroso, ma fidatevi, anche paradossalmente pieno di vita e di ottimismo. A volte si arriva addirittura a sorridere, perché la scrittrice, che appunto purtroppo è passata da questa esperienza, è riuscita a rendere tutta questa vicenda con uno stile lieve, che non è uno stile leggero, ma appunto uno stile lieve. Tra l'altro questo romanzo ha vinto la prima edizione del premio Simbad Città di Bari per quanto riguarda la sezione degli stranieri. E allora quando abbiamo incontrato Miriam Toews, la prima cosa che le abbiamo chiesto è un po' di spiegarci come funziona la vita nella comunità dei Mennoniti. Sentiamola. I Mennoniti sono molto conservatori, religiosi e fondamentalisti, più o meno come gli Amish. Vivono in comunità remote e isolate di tipo patriarcale. Molte cose sono proibite, per esempio gli strumenti musicali, ballare, bere alcolici. Le donne sono sottomesse e devono essere seguite le regole dettate dalla Chiesa. In questo romanzo si racconta la storia in prima persona di una ragazza, Ioli, che cerca di capire perché sua sorella maggiore, Elf, che apparentemente ha una vita di successo, è una famosa pianista, gira il mondo, vuole uccidersi. Lei ha dichiarato apertamente che si tratta di una storia autobiografica. In questo programma è una domanda che non facciamo mai, quella sull'autobiografia dei romanzi, ma in questo caso è evidente, lei l'ha proprio dichiarato. Scrivere questo romanzo l'ha aiutata a un po' a mettere, come dire, dei paletti al dolore del suicidio appunto di suo padre e di sua sorella, oppure si sente di essersi esposta un po' troppo con il pubblico? Scrivere il libro mi ha sicuramente aiutata a metabolizzare alcune delle cose che mi sono successe. Scrivere è un modo per dare senso agli eventi che mi sono capitati nel corso della mia vita, alle mie esperienze e alle mie emozioni. Anche solo un libro può dare un senso di chiusura del cerchio, di completezza, di comprensione e serenità d'animo. È solo un momento del discorso che farò sempre e dal quale sono ossessionata, quello sul suicidio e le malattie mentali e sulla sofferenza della depressione per via di quello che è successo alla mia famiglia. Non penso di essermi esposta troppo perché da quando ho scritto il libro tantissime persone sono venute da me per parlarmi della loro esperienza e abbiamo intavolato questo tipo di discorso e mi ha fatto sentire meno sola. Una delle cose belle di questo romanzo è che appunto viene visto dal punto di vista di chi è accanto a un malato di depressione, accanto a chi si vuole suicidare e si sente profondamente impotente e frustrato. Yoli si fa tante domande, alle quali però non riesce a dare una risposta. A volte sembra lei che voglia sbattere la testa contro un muro perché non capisce perché la sorella voglia togliersi la vita. Che tipo di rapporto c'è fra queste due sorelle? Yeah, exactly. The theme of the book, the central theme is that Yoli. Il tema centrale del libro è proprio che Yoli vuole davvero, davvero, davvero tenere in vita sua sorella. E all'inizio del romanzo è confusa, arrabbiata, terrorizzata. E deve cominciare a porre a se stessa tutta una serie di domande molto difficili. Che cosa significa amare qualcuno che vuole morire? In qualità di sorella, cosa Yoli è obbligata a fare quando Elfrida la supplica di aiutarla a morire? Questo è il cuore del libro e sicuramente Yoli combatte con questa tematica e trova molto difficile e quasi impossibile agire. Yoli mette la sorella anche alle strette, a un certo punto si arrabbia, diverse volte si arrabbia, dice: ma ti rendi conto del dolore che provocheresti in me, in nostra madre, in tuo marito? Però la persona malata in quel caso non sa cosa rispondere e Yoli si sente quasi un carnefice. Yes, it's true. Yoli's anger and the suffering of the family of Elfrida. La rabbia di Yoli e la sofferenza della famiglia di Elfrida sono molto profonde. E da quel che ne capisco di depressione e malattia mentale, causare questo dolore ai familiari non è l'intenzione della persona che sta soffrendo, è solo che questo dolore è inevitabile. E per le persone che hanno istinti suicidi, disturbi depressivi e malattie mentali, si tratta solo di un muro. È un dolore psichico che fa soccombere tutto il resto. La conoscenza e la comprensione della malattia mentale sono fondamentali e necessari. Come società dobbiamo fare di più per capire di cosa si tratta. La stessa Elf non sa le cause naturalmente della sua malattia, non sa spiegare perché vuole uccidersi. E allora che cos'è? È veramente voglia di morire o è voglia di non essere, cioè di non soffrire, di non vivere più quella situazione di sofferenza mentale? I think that it is exactly that is a good distinction to make, that it's a desire not to suffer. C'è una giusta distinzione da fare. È più che altro il desiderio di non soffrire più. Quando mio padre si suicidò, all'epoca mia sorella era ancora viva e mi disse: adesso non soffre più, non possiamo essere tristi per lui. In quel momento capii che lei sapeva molto di più della sofferenza di mio padre di quanto potessi saperne io. Lei si sentiva allo stesso modo e credo sia proprio questo il pensiero di Elfrida. Non vuole più soffrire e per una persona con tutto quel dolore l'unica cura è la morte, quando nient'altro ti ha aiutato e hai combattuto in vano per tutti questi anni. Dal percorso che lei descrive, insomma, in questo romanzo, si capisce che fin da piccola Elf è sensibile ad alcune cose. Per esempio, lei detesta la felicità sbattuta in faccia agli altri, le festività comandate, tutte queste cose. Quindi c'è qualcosa in lei che già dà segno di non avere un, non un equilibrio, ma ecco, di avere un problema con la gestione della felicità e dell'infelicità fin da piccola. Yeah, definitely there are signs throughout Elfrida's life that inability to experience Ci sono dei segnali in tutta la vita di Elfrida, come l'incapacità di sperimentare la felicità, ma non sempre, solo in alcuni momenti. Ad esempio, per mio padre e mia sorella, ci sono stati degli episodi in cui sembravano avere dei momenti felici. Io me li ricordo chiaramente ed erano genuini, ma non duravano a lungo. Inoltre, per entrambi, ma soprattutto per mia sorella, c'era questo odio per la falsa felicità, l'ipocrisia di tutto quello che di materiale celebriamo nella nostra vita, la fama, il successo, la celebrità, la ricchezza. Lei non riusciva a capirne il significato, cercava sempre un significato ulteriore a queste cose e ovviamente non riusciva a trovarlo. Si sono create queste barriere tra lei e la vita e alla fine non riusciva a fingere sul modo in cui vedeva tutte queste cose. E questa era la canadese Miriam Toso, ora in libreria con I miei piccoli dispiaceri, pubblicato da Marcos y Marcos. Grazie in regia a Paolo Corleone, vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su podcast su radio24.it. Naturalmente per essere aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.